Mix 24 di Giovanni Minoli. Cosa ne pensa di questo giubileo straordinario? Andava fatto nonostante il rischio di attentati? Sarebbe stato meglio non farlo in questo momento, insomma, sicuramente il giubileo. Perché secondo lei aggrava un pochino il rischio? Sì. Ma lei ha cambiato alcune delle sue abitudini, cioè esce meno, va meno a cena fuori? No, non esageriamo, questo no. Cerco di non cambiarle, anche se la mente è chiaro che ci va, perché insomma tutti quanti ci pensiamo e... La paura comunque c'è. Io sono in genere molto paurosa, quindi no, non vado nella metro. E sai, anche io ho vissuto a Parigi, in questa strada dove è successo l'attentato a Boulevard Voltaire. Ora però siamo ad una fermata dell'autobus, sali tranquilla. Io guardo anche sempre... un po' la gente che sull'autobus, non è giusto, non si dovrebbe fare, ma lo faccio. E lei ha paura? No, noi stamattina siamo andate a San Pietro, quindi è la dimostrazione che non abbiamo paura. E vi sentite sicuri ovunque? Beh, forse nei luoghi dove c'è assembramento qualche rischio in più potrebbe esserci. Tipo lo stadio, luoghi del genere dove comunque ci sono migliaia di persone. Non ho paura, però mi preoccupo. Assolutamente non mi sento spaventata perché non mi voglio far infinocchiare da queste situazioni e vivere nel terrore. Poi sono anche un po' fatalista, uno si salva anche se sta sul Titanic, se si deve salvare, se non si sa. Pensa che a Roma possano esserci attentati come a Parigi? Potrebbe succedere qualcosa, potrebbe non succedere, secondo me non succederà niente. La paura c'è, però se cambiamo abbiamo già perso. Andiamo avanti pregando il Dio che non succeda niente. Un giubileo speciale, cominciato l'8 dicembre, voluto da Papa Bergoglio proprio nell'anno degli attacchi terroristici dell'ISIS in Occidente. Dopo la sera del 13 novembre, dopo Parigi, molti cittadini, lo avete sentito, vivono le città e soprattutto Roma con la paura di possibili attentati. E i turisti, i pellegrini attesi, i numeri parlano di oltre 20 milioni di presenze. Sarà così? Ma come hanno reagito? Giovanna Corsetti ha intervistato il vicepresidente nazionale di Federalberghi, Giuseppe Roscioli, Walter Pecoraro, presidente di Federalberghi Lazio. L'anno del giubileo non ha mai portato un exploit di arrivi o di presenze che potessero lasciare il segno. Giuseppe Roscioli, vicepresidente nazionale di Federalberghi. È andata così anche per il giubileo del 2000. Nel 2000 abbiamo avuto il 6% in più su 8 milioni di arrivi. In numeri quanti sono stati i turisti in più? 480.000 persone che se le distribuiamo su 365 giorni sono poco più di 1.200 persone al giorno e credo che una città come Roma non se ne accorge nemmeno. Walter Pecoraro, presidente di Federalberghi Lazio, come sta andando questo giubileo straordinario? Non c'era stata ancora nessuna sensibile partenza di eclatante numero di prenotazioni, al contrario invece dopo i fatti di Parigi c'è stato un immediato risultato di cancellazioni nella settimana seguente che ci hanno fatto molto preoccupare. Giuseppe Roscioli, quante sono state le cancellazioni? Circa il 20% in più delle normali cancellazioni che noi abbiamo tutti i giorni, concentrate in questi 15 giorni a seguire del 13 novembre. E soprattutto chi ha disdetto? Una parte di queste cancellazioni sono avvenute per tutti coloro che principalmente transitavano per l'aeroporto di Parigi. Cioè? Normalmente tutti i turisti di oltreoceano, parliamo del mercato americano piuttosto del mercato asiatico, arrivano principalmente in quell'aeroporto di Parigi. Per cui tutti coloro che avevano come hub di arrivo Parigi hanno cancellato. E ora come va? Oggi le cancellazioni sono tornate a livelli ordinari, quindi non c'è più questo effetto. Quello che mancano sono le nuove prenotazioni. Walter Pecoraro, per gli alberghi va davvero così male questo giubileo? Noi registriamo 5% di prenotazioni che non sono avvenute rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli albergatori confermano i dati dell'associazione di categoria. Gli alberghi sono completamente vuoti, ma anche il piccolo B&B, che la gente appunto ha fatto dei piccoli investimenti, ha ristrutturato degli appartamenti per accogliere i pellegrini e tutto quanto, sono completamente vuoti. Cambiamo albergo, ma la risposta non cambia. È stato un grosso problema il connubio giubileo e terrorismo, perché so di per certo, per noi abbiamo un'attività pubblica, conosciamo tante persone che hanno anche tante strutture alberghiere, tante strutture ricettive che sono organizzate per un determinato tipo di lavoro. È stato tutto disdetto, è stato un grande flop. Giuseppe Roscioli, i suoi albergatori ci dicono che proprio il giubileo ha fatto aumentare la paura di attentati a Roma. Indubbiamente il giubileo ha avuto una carica emotiva molto forte, sottolineata dai media e dai giornali come probabile luogo di probabili attentati, e quindi è il combinato disposto attacchi di Parigi e giubileo. Se a Roma non ci fosse stato il giubileo, forse molte di queste cancellazioni non ci sarebbero state. Come fa a dirlo, presidente Roscioli? Molti hanno preferito viaggiare lo stesso ma cambiando destinazione, tant'è vero che nel periodo a cavallo dell'8 dicembre, quindi dell'apertura della Porta Santa a Roma, Napoli, Firenze e Venezia erano piene e Roma era mezza vuota. Walter Pecoraro, Roma è davvero la città più penalizzata dalla paura di attentati? Beh, la bandiera nera del Daesh sulla cupola di San Pietro o sul Colosseo non è che ha aiutato. Per il turismo, dunque, secondo Federalberghi, il Giubileo della Misericordia non è un'opportunità, aumenta la paura, sale il numero delle disdette. Giovanna Corsetti ha fatto un giro tra i locali di Roma per sentire che aria tira. Cominciamo dai bar del centro storico. A noi non porta nulla il Giubileo, sinceramente. Porterà forse soldi come al solito al Vaticano, perché sono tutti pellegrini che vengono con viaggi organizzati dal Vaticano, dalle suore, con pranzo al sacco, che si riempiono le bottigliette di acqua a ogni fontana che trovano, per cui a noi cittadini romani non porteranno neanche un euro. Entriamo in un altro locale, sempre nel centro storico di Roma, per sapere come vanno gli affari. Molto male. Quanto male? Di quanto è diminuita la clientela? Un 25-30%. Ma quindi la gente ha davvero paura? Non è paura, è la cattiva informazione forse che la TV ci dà. Cattiva informazione in che senso? Se siamo a sentire tutto quello che la televisione ci dice, la radio ci dice, dovremmo essere chiusi in casa, segregati in casa e non uscire più. Secondo lei, se non ci fosse stato il Giubileo, la paura sarebbe stata meno? Sì. Lei lavora in un bar, passa tutto il giorno tra la gente. Quali sono gli stati d'animo, le paure che vede? Sicuramente vedo una sorta di allarmismo. Se viene lasciata una busta, se viene lasciato un pacco da qualche parte, la gente ha paura, ha terrore. Beh, è comprensibile, non crede? Ma sono anche paure infondate, perché trovarsi nel mezzo di un attentato, per certi versi, uno ci pensa, è un po' come vincere il Superenalotto. Cioè, devi capitare in quel momento e quindi la paura è infondata. Lei ha paura? No, assolutamente. Ci siamo spostati in un ristorante, è ora di cena e non c'è praticamente nessuno. È un disastro perché sta mettendo in ginocchio proprio il nostro settore. Cioè è così per tutti? Direi proprio di sì, certo. Di quanto è diminuita la sua clientela? Un 60% in meno. Il 60% vuol dire che sia a pranzo che a cena il suo locale è praticamente vuoto. Abbiamo soltanto pochi clienti, quelli affezionati che ci conoscono, che sono tranquilli di venire qui. Però il turista occasionale no? Ce ne sono pochissimi, proprio pochi. Lei è uno dei camerieri, sta qui tutto il giorno, ha paura? Un pochino. Di cosa soprattutto? Di tutti, di tutto, vedere una busta. Stamattina ho ripreso anche col cellulare perché nell'arco di 2 minuti ho visto passare una dozzina di volanti della polizia che passavano anche contromano. Il primo pensiero è o è accaduto qualcosa o sta accadendo qualcosa. Cambiamo quartiere e arriviamo a Piazza Navona, di fatto deserta. Certo, noi qui in Piazza Navona, vedendo pure l'esercito, non è che faccia molto bene, non è che la gente si senta più sicura, anzi hanno tutti quanti un po' timore. Non crede che alzare il livello di sicurezza sia necessario? Il Giubileo ovviamente ci vuole della sicurezza, ma adesso è un po' troppa. Ecco, ma mancano più turisti o proprio romani? Tutto manca, turisti e romani. Di quanto è diminuita la sua clientela? Almeno il 50. Cioè, proprio siamo qui a passare il tempo quasi. Una tragedia. Non c'è nulla, proprio tutti spaventati. Ed è così per tutti sulla piazza. Poi qui a Piazza Navona non c'è neanche un albero di Natale, sembra deserto qua, una cosa spaventosa. Mai visto una cosa del genere in vita mia. Siamo un po' troppo allarmati, diciamo, bisogna continuare a vivere, non è che ci si può rinchiudere dentro una casa e basta. Walter Pecoraro, come Federalberghi le chiedo, ma è possibile che davvero il Giubileo non dia nessuna spinta al turismo italiano? Paradossalmente i risultati del Giubileo si sono sempre visti negli anni a seguire, perché le immagini della città per un anno intero in giro per tutti i telegiornali o le trasmissioni dei media di tutto il mondo hanno sempre avuto un effetto promozionale importante, quindi l'evento è sempre stato da noi visto con grande favore, ma la cui ricaduta è sempre avvenuta negli anni a seguire. Bene, aspettiamo fiduciosi, ma intanto come vanno le opere? I lavori previsti per il Giubileo, cantieri per rifare strade, stazioni della metropolitana, decoro urbano, così come era stato annunciato prima dall'ex sindaco di Roma e poi dal premier Renzi e dal suo commissario Tronca. Sempre la Corsetti ha controllato lo stato dei lavori con il presidente dell'Associazione Costruttori Romani, Edoardo Bianchi. In realtà siamo fermi all'inizio, perché di tutto quello che si è scritto sui giornali in realtà ben poco si è cantierizzato. E i soldi, i 300 milioni di cui ha parlato il Premier subito dopo le dimissioni di Ignazio Marino, che fine hanno fatto? A ieri sera non è arrivato niente, noi stiamo parlando sempre degli stessi soldi dei romani rispetto ai quali il governo centrale ha solo autorizzato che venissero utilizzati per fare lavori invece di andare a ripianare il debito precedente, però in realtà di tutto quello che abbiamo letto sui giornali, Dream Team di persone che avrebbero affiancato il prefetto Tronca nelle sessioni del Giubileo, oppure un Dream Team di risorse economiche messe a disposizione di Roma, a ieri non c'è traccia. Ma secondo lei arriveranno mai altri soldi? A questo punto forse non c'è più neanche, c'è bisogno ma non è più neanche opportuno, ormai il Giubileo è iniziato. Pure se arrivassero domani in mattina, prima che uno fa una procedura di gara, prima che aggiudica, prima che vengono consegnati i lavori o le forniture, il Giubileo è finito. Cioè ci sono dei tempi dell'amministrazione che non combaciano assolutamente con i tempi dei proclami sui giornali. Sono due sport completamente differenti. Però scusi, intanto i cittadini tappano di propria iniziativa le buche sulle strade, rifanno la segnaletica, è su tutti i giornali. A lei sembra normale che questa città, con i problemi che abbiamo di strade, l'amministrazione Marino è andata via e non è stato pubblicato un bando di gara per la manutenzione stradale. Quindi nessuno allo stato oggi, attuale se ne deve occupare. Oggi quelle poche che ci sono, quel minimo di servizio è stato assegnato con procedure straordinarie. È intollerabile. Quindi per ora un Giubileo con pochi pellegrini e senza opere. Ci rimane solo la misericordia, ma intanto anche questa settimana diamo voce all'ironia di Sora Cesira. Hotel Giubileo, buongiorno. Buongiorno, io ho fatto prenotazione per le disdire. Ma no, vuole disdire perché adesso c'è questa storia del terrorismo. Guardi, no, in realtà le devo dire che la situazione è molto tranquilla. Qui c'è una paura nera, il turista è circospetto, e se più non viene a Roma devo chiudere st'alberghetto. Mi aspettavo un'invasione, un raduno gigantesco, ma a San Pietro siamo in 4-5 con Papa Francesco. Sì, vabbè, voi temete l'ISIS, ma il kamikaze è messo male, son due mesi che sta in fila fermo sulla tangenziale. Che sfiga tremenda per il ristoratore, 100 euro una merenda senza nessun pudor, non parliamo nemmeno del poro scippator e dell'onesto abusivo che sta a pezzi. Ecco, ma questa paura nera della scarsa sicurezza non è niente confrontata con le buche e la monnezza. Vieni, vieni pellegrino, non stracciare il tuo biglietto, adesso prendi questo volo o devo chiuder col lucchetto. Adesso, come tutti i venerdì, con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena fare, vedere, leggere e ascoltare. Siamo impegnati in una guerra. Questa guerra non si combatte per il momento con uomini armati, ma con le informazioni. Loro hanno il nostro uomo, il nostro pilota spia. Noi abbiamo il loro. Vogliamo che negozi lei lo scambio. Il film è Il Ponte delle Spie. Lo scambio è quello storico del 1962 che vede da una parte il pilota americano Gary Powers e dall'altra la spia russa Rudolf Abel, arrestato a Brooklyn. La storia dei negoziati che hanno portato allo scambio è al centro del nuovo thriller di Spielberg, appunto, con la sceneggiatura dei fratelli Coen e con Tom Hanks nei panni dell'avvocato Donovan, incaricato della difesa di Abel e delle trattative con i russi. È bravo nel suo lavoro. Sarà la prima volta per entrambi. Dovrebbe essere cauto. Come ci guarderanno? Come la famiglia di colui che vuol far liberare un traditore? Ogni uomo è importante. È una spia! Perché non lo impicchiamo? Dobbiamo sapere quello che le dice il russo. Non è una conversazione che faremo. Non faccia il Boy Scout con me, non c'è il manuale delle regole qui. Non mi dica che non c'è, noi la chiamiamo Costituzione. Dove vogliono che abbia luogo questo negoziato? A Berlino Est. La gente nel mio paese lo considera un atto di guerra. Il prossimo errore commesso dai nostri paesi potrebbe essere l'ultimo. E proprio il libro scritto dall'avvocato Donovan nel 1964, La verità sul caso Rudolf Abel, è alla base del nuovo film di Spielberg. Ma chi era Rudolf Abel in realtà? Non quello che sembra, secondo Kirill Chenkin, autore di un altro interessantissimo libro, Il cacciatore capovolto, che non solo è un'indagine su uno dei casi più celebri nella storia dello spionaggio, ma anche un viaggio all'interno di un sistema, come quello sovietico, che per Chenkin ha le sue fondamenta proprio nell'incertezza dettata dal dubbio. E Chenkin, che in quel sistema ha vissuto, ha lavorato per i servizi segreti sovietici prima di riuscire a farsi cacciare dall'Unione Sovietica, per lui raccontare la storia di Abel è anche un modo per attraversare quasi mezzo secolo di storie di spionaggio, di denunce, di suicidi, di inganni. Il cacciatore capovolto di Kirill Chenkin, ad Elfi. E poi ancora cinema, perché come da 20 anni a questa parte, dal 26 dicembre al 2 gennaio, a Capri andrà in scena il Festival del Cinema fondato e prodotto da Pascal Vicedomini. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pascal. Capri Hollywood, appunto. Pascal, la tua creatura compie 20 anni. Come festeggi? I festeggiamenti sono iniziati lo scorso 5 ottobre quando abbiamo fatto un gran galà al Teatro San Carlo di Napoli per onorare Lina Wertmüller, che è stata la nostra prima madrina, e tra l'altro lei dopo quella serata è stata onorata della cittadinanza onoraria di Napoli, che le verrà consegnato proprio martedì prossimo al Comune di Napoli. Chi sono i premiati di questa edizione? Ecco, innanzitutto il chairman e il premio Oscar danese Billy August. Poi molto attese sono due attrici, una americana che è la diva del momento, si chiama Brie Larson, protagonista del film Room, un nome che sicuramente gli appassionati di cinema già conoscono e che molti impareranno a conoscere la notte degli Oscar. E l'altra è Paola Cortellesi, che quest'anno è reduce da una stagione straordinaria tra cinema e anche teatro con Dario Fo. E poi tantissimi altri, il regista Cary Fukunaga, che ha fatto un film straordinario sui bambini soldato in Africa. E ancora Matthias Schoenaerts, protagonista di Danish Girl. Sì, e poi c'è un'anteprima, il primo gennaio, che apre il nuovo anno. Sì, l'anteprima del primo gennaio è Macbeth, sì. Protagonisti sono Marion Cotillard e il grande Michael Fassbender, che mi sento di darvi a voi per primi la notizia, sarà protagonista di un altro film anche che faremo a Capri Hollywood, dedicato a Steve Jobs di Danny Boyle, anche sì, con Kate Winslet. Dunque Michael Fassbender, che già è candidato all'Oscar, diciamo automaticamente, perché il Golden Globe, lo schiaffo che l'hanno nominato, lui probabilmente appunto sarà uno dei protagonisti di questo festival. Senti, e poi tu lunedì sera presenti un altro evento importante su Sky 1. La grande serata a Hollywood, al Dolby Theater, di Andrea Bocelli, che ha presentato il suo ultimo lavoro, il disco Cinema, insieme a John Travolta, Andy Garcia, Ryan Neal, Ally McGraw e tantissimi altri, dietro l'abile regia di Tony Renis e di Veronica Berti. Una serata speciale su Sky 1 alle 21. Quindi Capri Hollywood dal 26 dicembre al 2 gennaio, 20ª edizione, e lunedì sera su Sky 1, e di questo comunque torneremo a parlare con Franco Schipani tra poco, la serata da Hollywood sul nuovo album di Bocelli. Grazie. Esatto, un'utilissima cosa. Dici. Per tutti i fan del cinema, potranno seguire Capri Hollywood sul canale cinema di Mediaset Iris tutte le sere. Saranno tantissimi amici del cinema e anche intellettuali internazionali per affrontare i vari temi come l'omofobia, internet e la cultura, e soprattutto il potere delle donne. Tu dovresti saperne qualcosa. Il potere delle donne, addirittura. Grazie Pascal. Grazie. Pietrangelo. Buongiorno. Buongiorno. Dove andiamo questo weekend? Questo fine settimana, ecco, mi aiuto con gli intona rumori, mi russolo. Ecco, voglio dedicarmi all'arte, alla conquista della bellezza attraverso le pagine di un libro. E su queste note futuriste io ti presento Rachele Ferrario, autrice di Margherita Sarfatti, la regina dell'arte, è il titolo del suo saggio pubblicato da Mondadori. Buongiorno. Buongiorno Rachele Ferrario. Buongiorno a voi. Gran parte del pubblico pensa a Margherita Sarfatti solo come all'amante di Mussolini. Ma chi era davvero? Margherita Sarfatti è sempre stata considerata la donna che creò il Duce, insegnandogli le buone maniere, introducendolo negli ambienti colti e internazionali. È con lei però che gli instilla l'idea della classicità nell'arte. Tutto questo è vero, ma Margherita Sarfatti è stata anche qualcosa di più. È stata la prima e la più grande critica d'arte del Novecento italiano, una donna colta proveniente da una delle più grandi famiglie ebree veneziane, che parla e scrive in quattro lingue e che scopre il talento di Boccioni, sostiene Sironi, con cui ebbe un sodalizio che durò tutta la vita, e fu vicino e scoprì i futuristi. Nel libro ci sono delle bellissime lettere inedite di Russolo, visto che abbiamo questo bellissimo intono a rumore di sottofondo, e Russolo vittima anche lui del fascino di Margherita Sarfatti, e persino Mussolini a suo modo è futurista. E poi Margherita Sarfatti fondò il Novecento, il movimento che segue le avanguardie e che va letto in chiave europea all'interno dei realismi che si diffondono in tutta l'Europa all'indomani della Grande Guerra. In Senta, arte, ma poi, a proposito del fascino di Margherita Sarfatti, è lei a usare il Duce o il Duce usa lei? Si usano entrambi. Il Duce usa la lucida intelligenza della sua amante colta e raffinata e la sua spregiudicatezza per avere entrature internazionali e nel mondo dell'arte e della letteratura. Lei invece, grazie anche al suo rapporto con l'uomo più potente d'Italia, si impone sulla scena culturale e può dare vita e portare a termine il suo progetto, un'avanguardia artistica in linea con la tradizione classica italiana. Io mi sono fatto un'idea, avendo letto il libro bellissimo di Rachele Ferrario, che la vera moglie di Mussolini fu appunto Margherita Frassini coniugata Sarfatti, e donna Rachele invece fu solo la sposa di Benito. E quando infatti cara Alessandra capitò il cortocircuito, che lui era in ospedale ferito in guerra, la signora Mussolini al capezzale, all'arrivo della Sarfatti si alzò e ruggì: vado io a ricevere questa tua moglie. In fondo chi era quell'uomo? Era quello che scriveva a lei: sono in cerca del buonsenso e voglio ucciderlo. Un'ultima domanda. Questa storia d'amore racconta anche l'autobiografia dell'Italia? Forse in qualche modo sì. Margherita, quando va negli Stati Uniti e prende il tè con Roosevelt alla Casa Bianca, si rende conto dell'importanza e della potenza della flotta americana e degli Stati Uniti. Torna da Benito Mussolini, che ha già incontrato Hitler, si fa ricevere e gli dice: non ti alleare con Hitler, non ti mettere contro gli americani. E il Duce, quasi scocciato, le dice: l'America non conta. È l'autobiografia d'Italia, in cerca del buonsenso per ucciderlo. Grazie Rachele Ferrario, edizione Mondadori, il titolo Margherita Sarfatti, la regina dell'arte nell'Italia fascista. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. E adesso, come sempre, la musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Buongiorno Alessandra, ciao. E più ti penso e più manchi, ti vedo con... Bocelli, Franco, ne parlavo prima con Pascal Vicedomini. Esatto. Ma ne dovevi anche parlare con Tony Renis, perché il Deus Ex Machina dietro questo meraviglioso disco di Andrea Bocelli che si chiama Cinema è proprio lui. Sentite questa bellissima canzone in sottofondo? Ecco, questa l'ha scritta lui. Pensa a Bocelli come si è divertito, perché che cosa ha fatto lui? Ha preso le colonne sonore che secondo lui sono quelle più belle, quelle che a lui gli piace cantare, quelle che gli ricordano qualcosa, dei ricordi atavici della sua carriera, della sua fanciullezza, non lo so, e ha fatto veramente un capolavoro. Sono colonne sonore di film famosissimi, di film italiani, di film inglesi, di film spagnoli. È veramente una cosa eccezionale. Quindi, se non volete uscire per andare a vedere un concerto, prendete questo disco di Bocelli che si chiama Cinema, statene tranquilli e comodi a casa vostra e ascoltatevelo tutto. Ehi, vuoi ascoltarmi? Ho ancora altre facce da indossare. Tu chi sei? Mi assomigli? tra quelle che ho cucito e non ricordo più chi sei. Tu sei. Beh, sono nati musicalmente in Puglia, cara Alessandra, questi Negramaro. Ma il nome lo sospettavo, così. Negramaro. Un pochino, vero? Comunque loro sono riusciti in brevissimo tempo a diventare un fenomeno musicale nazionale, veramente di grandissimo successo, e se lo meritano tutto. La loro forza è proprio nelle esibizioni dal vivo, a parte i loro dischi che sono veramente bellissimi. Però quando sono dal vivo riescono veramente a dare il meglio di loro stessi in atmosfere indimenticabili. Allora, l'appuntamento con i Negramaro, uno degli appuntamenti, il prossimo appuntamento è per dopodomani, 20 dicembre, al Pala George di Montechiari. Ecco, sono due appuntamenti da non mancare perché ne vale la pena. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità di fare da lo so che ho sbagliato. Ecco, pensa a una ragazzina negli anni 60 che dice voglio fare la cantante. Dico, ma sei una folle. Beh, folle. Beh, ci hanno pensato un po' di ragazzine negli anni 60, sì, però, non tutte ci sono riuscite. Ma non era come oggi che fai gli X Factor, che vai, che mandi certo, CD, che stai certo su YouTube. Cioè, una dice sposati, fai dei figli, organizzati. Cioè, era un po' un atteggiamento rivoluzionario. Comunque, questa ragazzina si chiamava Caterina Caselli, dopo una durissima gavetta fatta di feste rionali, concorsi canori. Ecco, lei è arrivata al Festival di Sanremo, diventando poi un'icona per tantissime teenagers. Cantante, poi scopre talenti internazionali, diventa imprenditrice. Quella di Caterina Caselli è la storia di un artista e di una donna di grandissimo successo. Questa storia ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi. Molto, molto.